Ma questi ragazzi che studiano filosofia, dove vanno? Ma lo trovano un lavoro? Ma guardi, lo so, una filosofia. Ma sono lavori inventati, non fanno mia nulla, sono scioperati. Parlavate di me forse? Ciao, sono il vostro simpaticissimo Diamond Da, pensionato da una vita. Io sono nato per essere vivo. No, non ci arrivo, no, non ci arrivo. Puoi essere schivo in un mondo privo, in un mondo privo. Sogni, progetti e colori, dove gli allori, dove gli allori. Fanno soltanto i sapori, tutti i colori, tutti i colori. Milito in un reggimento, che scioglie ogni armento, che scioglie ogni armento. Da fisso in truppamento, suicida marito, si rido contento. Per niente sgomento, alla salta alla pugna, proprio un portanto, futura milizia est, ha, ha, ha. Vita milizia est. Navigare nei cesse est. Vivere. Cesse. Se poi non sopravvivessi, se non ce la facessi, se non ce la facessi, sarà sempre meglio degli ossi, a volte anche grossi, a volte anche grossi, che mangiano i cani depressi, senza manca talessi, senza manca talessi. Quel tipo di sopravvivenza non mi arra la lenza, non mi arra la lenza. Io milito in un reggimento, che sceglie ogni armento, che sceglie ogni armento. Cristo in truppamento, suicida marito, si rido contento. Non sono per niente sgomento, alla salta alla pugna, proprio un portento. Cultura milizia est, ah, e che ti credevi? Vita milizia est, ah. E allora dov'è il problema? Navigare nei cesse est. Vivere. Vivere, vivere, vivere, non necesse. Ogni arrento, che scioglie ogni arrento. Lo fristo in truppamento, suicida marito, si rido contento. Non sono per niente sgomento, all'assalto alla pugna, proprio un portanto. Futura milizia esta. Vita milizia esta. Navigare nei cesse esta. Vivere, vivere, vivere, vivere, non necessario.